Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Due gol colombiani alla ribalta, quelli di Muriel del Lecce e di Barbo del Cagliari. È difficile scegliere il più spettacolare tra i due di questi giovani ragazzi colombiani per l'appunto, in una giornata in cui ci sono stati 7 gol sudamericani su 16 in totale. Abbiamo segnato anche 2 uruguaiani, cioè Cavani e Santiago Silva, 2 cileni, Isla e Vidal, e l'argentino Lavezzi. Ma Muriel, Ibarbo e Santiago Silva sono al primo gol in Serie A, e le prime due sono davvero delle prodezze autentiche, come quella di Diamanti, che non ha segnato, ma che con quell'assist di tacco per il gol di Vaio, e tra l'altro Vaio con quel gol è arrivato a quota 200 in carriera, di cui 135 in campionato in Serie A. Con quell'assist di tacco, Diamanti mi sembra abbia reso omaggio, come si deve, a un grande del passato come Socrates, scomparso ieri mattina in Brasile. Socrates era celebre proprio per questa sua grande disinvoltura nella rifinitura di tacco in area o fuori area, ed è un peccato che un campione come lui non fosse riuscito a mostrarci il suo meglio nel campionato italiano quando giocò con la Fiorentina. Sono stati tanti i ricordi di questo campione brasiliano. Mi sembra che il più significativo sia quello di Dino Zoff. Senza dubbio era un grande, ma ha fatto gol ai mondiali. C'è un gol anche che magari qualcuno ha messo in dubbio le mie qualità. È vero, esatto. È vero. Però quando un grande giocatore fa un gol, c'è dell'arte dentro, quindi far passare la palla lì non era così semplice, ecco. Quindi certo in Italia non ha fatto grandissime cose, ha avuto qualche problema anche, però insomma rimaneva sempre una persona stimabile. Dentro e anche, e forse soprattutto fuori dal campo, per la sua personalità, per il suo coraggio di opinioni, per il suo essere sempre fuori dal coro durante la carriera e poi alla fine. È stato davvero un personaggio di cui ci ricorderemo. Socrates. Allora, qualche curiosità statistica di giornata, segnalata come sempre da Franco Piantarida. Dunque, se parliamo di Juve, intanto era dal 97-98 che non era imbattuto dopo le prime 14 giornate, e come allora sono 8 vittorie e 5 pareggi in 13. La differenza è che allora non era in testa alla classifica, adesso lo è, con 2 punti di vantaggio, come sapete, su Milan e Juventus. Milan è arrivata alla 100ª vittoria in carriera da allenatore per Massimiliano Allegri, 300 partite in Serie A per Di Natale e 139 gol con una media di 0,46 a partita, che è davvero molto alta su un numero così significativo di partite, cioè 300. E poi ci sono i due disastri, che sono uno dell'Inter e uno della Roma. Allora, l'Inter, vabbè, a parte la prima espulsione in Serie A per Zanetti dopo 458 partite, perché era già stato espulso una volta in Coppa Italia con il Parma nel 99 e ad espello allora insieme a Bergomi e a Colonnese, l'Inter finì in 8. Fu Bracchi, che è l'attuale designatore della canna di Serie A. Finì in 8 l'Inter quella volta, è finita in 8 la Roma a Firenze, che nella sua storia non aveva mai subito 3 espulsioni in una stessa partita e che è arrivata alla 4ª sconfitta nelle ultime 6. Mi sembra un rollino di marcia davvero impressionante in negativo. E poi alcune altre curiosità, per esempio il 6° gol di Marchisio, che sta trascinando, lui più di altri, secondo me almeno, la Juventus in testa, ha trascinato la Juventus in testa della classifica. Ed è curioso come Marchisio nelle giovanili della Juventus facesse copia di Mezzeali, lo ha fatto per un certo periodo con Nocerino. Marchisio a quota 6 gol in A, Nocerino a quota 5, e mi sembra che tutte e due stiano facendo le fortune di Juventus e Milan. Cominciamo a sentire qualche commento della domenica, e direi che la prima voce è quella di Barbo, di questo colombiano del Cagliari, reduce dalla grande prodezza sul campo di Catania. Sappiamo che non è facile giocare a Catania con uno grande rivale, però merecimos un poco y gracias a Dios nos vamos con los tres puntos a casa. Feliz, feliz, feliz. Ahora más que llegó mi familia, mi hijo. Y Cerdeña es muy tranquilo y siempre la tranquilidad me gusta mucho para concentrarme al 100% en lo que es el fútbol y en lo que es mi vida. Beh, io credo che sia abbastanza comprensibile, no? Non ci sia bisogno di traduzione per questo, per questi pensieri di gioia, di felicità di Barbo, sul cui conto traccia un ritratto il suo neo allenatore, insomma, è tornato da molto poco Ballardini. Non assomiglia né ad Asprilla né a Suazo, perché è un giocatore, no, mi spiego, è un giocatore che sa giocare con la squadra, è molto presente con i compagni, conosce il gioco. L'unica cosa che deve fare è essere sempre nel gioco. Il primo tempo purtroppo eravamo obbligati a giocare così per le caratteristiche dei nostri giocatori, volevamo magari difendere un po' meglio nella nostra metà campo e ripartire più in velocità anche con gli esterni, non ci è riuscito questo. Poi nel secondo tempo invece abbiamo giocato come siamo soliti fare. Nel frattempo Del Piero è stato dimesso stamane dalla clinica Fornaca, dove ha trascorso la notte in osservazione in seguito allo scontro di gioco di ieri, in cui ha riportato una ferita alla tempia sinistra che è stata suturata con 8 punti. È stato sottoposto per estrema cautela a un encefalogramma che ha escluso complicazioni e quindi per l'appunto ha lasciato la clinica. Lo aspettano 2 giorni di riposo assoluto prima di riprendere gli allenamenti. Curioso che il giocatore che, certo involontariamente, ma pur sempre con una tratta molto pericolosa, gli ha letteralmente spaccato la faccia e che era già ammonito, non abbia subito in quell'occasione la seconda ammonizione. Cioè un calcio in faccia del genere, sanzionato con la regola del vantaggio, perché in realtà così è andata, è sembrata un po' leggerina come interpretazione arbitrale in una partita, tra l'altro, che l'arbitro Romano Doveri o Doveri, non ho ancora mai ben capito quale sia la pronuncia corretta, ha arbitrato abbastanza male da capo a fondo, sia sul piano disciplinare che poi sul piano tecnico nel finale. Chi possiamo ascoltare? Beh, intanto tra poco ascoltiamo voi e i vostri interventi in diretta, come sempre, all'800 24 0024, secondo la ben nota formula del lunedì. Potremmo incrociare Rey e Tesser, cioè i due allenatori che sono impegnati ancora stasera in questa interminabile 14ª giornata che è stata spalmata come mai in precedenza, che per l'appunto vedrà la fine stasera all'Olimpico soltanto con Lazio-Novara. No, va aiutato in modo particolare in questo momento, perché anche lui sa di non essere in grande condizione, sa benissimo che non sta facendo bene, ed è chiaro, un giocatore come lui, che ha sempre fatto campionati diciamo importanti, ha fatto sempre i gol, perché è la prima volta che si ferma così al palo, come si suol dire, però i gol sono nel suo DNA, lui chiaramente non riesce probabilmente a sbloccarsi e questo non gli dà serenità, e quando magari viene toccato, quando magari viene, siccome è un carattere molto impulsivo e forse come me sotto l'aspetto caratteriale, però va aiutato, va capito, va aspettato, perché questo è un giocatore che dal punto di vista fisico, anche come caratteristiche, è un giocatore che ci può dare sicuramente una mano. Ma io penso che noi dobbiamo pensare a noi, perché la Lazio ha giocatori importanti, squadra molto forte, penso che ci sia poco da dire sulla qualità di questa squadra. Noi dobbiamo guardare noi stessi, far noi una partita importante, perché per far risultato, e noi abbiamo bisogno di risultato, all'Olimpico devi fare una prestazione veramente perfetta, altrimenti è difficile. Troveremo una squadra che ha grande voglia di continuare a far bene, di essere protagonista, di vertice, perché ci credono, perché lo sono, perché è una squadra strutturata per essere importante, per essere competitiva. Fa notare un ascoltatore che Muriel, quello del Lecce, è di proprietà dell'Udinese e quindi a fine stagione potrebbe rientrare. In realtà credo che non sia più di proprietà dell'Udinese, credo che lo fosse e che in realtà sia stato ceduto al Lecce, ma con un accordo di possibile rientro. Insomma, morale, Muriel sì, prima o poi potrebbe essere un signor rinforzo per una squadra che comunque è seconda in classifica, che ha appena vinto a Milano e che ha vinto a Milano tre giorni dopo aver pareggiato a Rennes in Coppa, in Europa League, e quindi aver praticamente quasi ottenuto la qualificazione al turno successivo. Quindi una squadra che dopo quella flessione improvvisa in attesa e anche abbastanza netta di Parma, in realtà si è ripresa e ha ricominciato a macinare il suo gioco e i suoi punti, soprattutto in classifica. Giorgio ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, e grazie per darmi la possibilità di un paio di ricordi veloci su Socrates, vissuti proprio personalmente. E io allora ero un ventenne e tifoso viola, no? E la prima cosa che ci colpì a tutti i ragazzi, che allora non era come adesso che gli allenamenti sono blindati nei centri sportivi, allora gli allenamenti erano una cosa alla portata di tutti, tutti noi ragazzi andavamo a vederli dopo la scuola, dopo l'università. E la prima cosa che ci colpì di Socrates è che mentre c'è allora i compagni, Passarella eccetera, arrivavano con i Mercedes, con le Porsche, qualcuno con le Ferrari, lui arrivava agli allenamenti, arrivò già dai primi giorni con la Renault 4 scassata, proprio era uno anticonformista anche nel modo di vivere. E un'altra era quella che dopo un po' si sparse la voce, vera poi verificata, che era dopo qualche settimana cominciò a rimanere antipatico, no, ai compagni di squadra, perché lui era veramente una persona di grande cultura e di grande spessore, leggeva Platone eccetera eccetera, e in un mondo come quel, soprattutto dei calciatori dell'epoca, che faticavano a conoscere mai buongiorno, se si può dire così, e sì, era veramente, cominciarono a prenderlo abbastanza in antipatia, come cominciarono a prenderlo in antipatia, e poi chiudo, alcuni giocatori, alcuni anziani giocatori di carte nei circolini, no, della periferia fiorentina, perché Socrates aveva l'abitudine, più o meno una volta a settimana, una volta ogni due settimane, a recarsi la sera dopo cena, un giorno o due al mese, in questi circolini dove veramente si parlava di tutti gli argomenti, e era talmente tanta la gente che arrivava di tutte le età a quelle serate dove Socrates parlava del più e del meno, che purtroppo gli anziani che lì la sera giocavano abitualmente a briscola la scopa erano costretti per quella sera lì a uscire o a spostarsi e a cercare un altro campo di gara, perché Socrates monopolizzava l'attenzione. Beh, che poco alla volta avesse avuto problemi con alcuni compagni è indiscutibile, certamente con Passarella, che diciamo che dal punto di vista sia caratteriale che culturale era leggermente distante, sto usando proprio un eufemismo con la E maiuscola, da un uomo di spessore come Socrates, anche da un punto di vista etico, insomma da tanti punti di vista. Ma poi ce n'è altre di Socrates, insomma, magari andando avanti qualcuna la possiamo anche raccontare. Giorgio, grazie per questo ricordo. Pietro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione Radio 24 in generale, che è una radio stupenda in tutti i campi. Senta dottore, io sono un simpatizzante della Lazio, ma quanto mi piacerebbe se lo scudetto lo vincesse l'Udinese? Mi comprerei 50 casse di quel vino friulano, come si chiama, il Tokai. Ma veramente, ma perché deve vincere sempre in 3.000 euro? Ma lei deve considerare che queste realtà vanno sostenute, non sono sostenute, si sente sempre parlare di Inter, Milan, ma l'Udinese che è fantastica, un po' di attenzione, io sono della Lazio, ma ahimè questa è la realtà romana, è quella che è, purtroppo non potrà mai decollare, caduto l'impero romano, non so, è finita alla grandeur. Detto questo, dica qualcosa dell'Udinese. Sì, sì, guardi, la prima che le dico, Pietro, che Tokai non esiste più, è rimasto un po' indietro, glielo dico con grande simpatia, perché il Tokai è un nome, un marchio che si annessa all'Ungheria, e quindi quello che una volta si chiamava Tokai in Friuli oggi si chiama Friulano, ma da un po' di tempo, insomma, proprio per una questione di marchi, dopo una lunga vertenza, credo con la UE tra l'altro. E, dopodiché si immagini se non saremmo in tanti, ma proprio credo in tanti felici, se ogni tanto, no? Cioè, se dopo tanti anni dal Verona, per esempio, che risale all'85, non ricapitasse che una squadra di provincia vince un campionato, e tra l'altro lo vincerebbe. Siamo un terzo di stagione, ma se adesso capitasse adesso non si può certamente dire che mancherebbero i meriti, proprio perché non va mai dimenticato che mentre quest'estate tutte le squadre si sono rafforzate in maniera reale o presunta, magari in qualche caso, in ogni caso hanno investito, il Pozzo invece hanno messo in banca, o comunque hanno hanno recuperato dal mercato una cinquantina di milioni di euro mal contati, anzi direi proprio qualcosa più che qualcosa meno, vendendo i tre pezzi pregiati, no? L'ho detto tante volte, ma è giusto ripeterlo, perché Sanchez era il fiore all'occhiello, ma Ingler che è andato al Napoli e Felipe che è andato in Spagna non è che fossero molto, molto da meno. E quindi a maggior ragione, insomma, l'Udinese meriterebbe questo. Però sappiamo già anche che col nuovo anno, oltre a questi tre, ne perderanno per un mese e mezzo, altri tre che andranno a giocare la Coppa d'Africa. Insomma, diciamo che già sarebbe un'impresa in condizioni normali, con queste partenze, sia pure temporanee, in più, credo che l'impresa sarebbe più dura ancora. La prego, se inventi un programma che parli di vino, scrive Max Pavia, sarebbe magnifico. Beh, insomma, non mi dispiacerebbe, devo dire, ma per il momento restiamo al pallone, magari ogni tanto facciamo una digressione o un'incursione, se preferite. Luca, dalla provincia di Forlì e Cesena. Ah, buongiorno Garanzini. Molto brevemente, io ieri ero a Torino e ho visto Juventus Cesena. Premessa, il Cesena non ha certo perso per colpa dell'arbitro, anzi poteva prendere tranquillamente 3-4 gol, però se c'è una cosa che mi infastidisce nel comportamento dei giocatori è la protesta sistematica nei confronti dell'arbitro. Io non seguo il calcestro, non so dall'altra parte, in altre state come si regolano, però il fatto che ogni fallo laterale, ogni punizione, ogni fuorigioco sia sempre oggetto di contestazione, fare il campanello intorno all'arbitro è una cosa non brutta, bruttissima. E il pubblico fa la parte del pubblico, però i giocatori professionisti secondo me dovrebbero almeno provarci. Io in molti contesti non vedo neanche lo sforzo, non vedo il provarci, e se non vedo lo sforzo mi viene il dubbio allora che tu lo faccia apposta, che sia proprio un modo di condizionare l'arbitro. Certo. E io secondo me dovere è uscito dallo stadio con un mal di testa pazzesco, perché sì. Ci sono già quattro arbitri, non c'è bisogno che il chiellino della situazione aiuti l'arbitro ad arbitrare, perché ci pensa lui. Sì, succede un po' su tutti i campi, non solo a Torino, non sei per quello, però sì, insomma, questa è una cosa, ieri ha colpito un pochino anche me questo, ma ripeto, non solo su quel campo. E un'altra cosa che mi ha molto colpito invece, per esempio a Verona, Chievo-Atalanta, e per esempio in Bologna-Siena, è il numero incredibile di trattenute in area, ma di trattenute preventive, di trattenute durante il percorso del pallone, di trattenute successive, ma una cosa di tribale addirittura, no? Su cui questi arbitri non fanno letteralmente una piega. Io ricordo che 3-4 stagioni fa il designatore di allora disse: daremo 15 gol a quest'anno, daremo 15 rigori a partita se continueranno queste trattenute. Temo fosse Pairetto, quindi è passato qualche anno in più, quindi poi Pairetto ha avuto i guai suoi su altri versanti, però è vero che non se ne può più, cioè ci sono veramente delle scene di catch o di wrestling ininterrotte prima ancora che la palla parte, è tutto di una volgarità insopportabile, ma soprattutto di una irregolarità regolamentare proprio fuori dall'ordinario. Franco è in linea da Pescara invece, buongiorno. Buongiorno dottore, io sono un tifoso della Juventus, chiamo per esprimere la mia soddisfazione per questa annata che per adesso sembra buona. Infatti questa sera guarderò la partita con la Lazio sperando in un pareggio, più che altro perché secondo me l'obiettivo è sempre la Champions League per la Juventus. Bisogna tenere i piedi per terra perché il campionato è molto lungo e il Milan secondo me è molto ben attrezzato, e come diceva anche il radioascoltatore precedente, anche Udinese può dire la sua secondo me fino alla fine, anche se la Coppa d'Africa peserà particolarmente secondo me sull'organico dell'Udinese. E niente, poi mi piacerebbe molto che si parlasse anche un po' di più del bellissimo programma della lotta alla salvezza, che coinvolge parecchie provinciali come Novara, Bologna e Inter. Grazie. La immaginavo quando è partito con la cosa, le battute bisogna cercare di non farle indovinare prima perché si era felice, però la battuta attualmente ci sta in piena regola perché l'Inter non era combinata male così dal 46-47, ho qua davanti i numeri di Franco Piantanida, dopo 13 partite allora aveva 12 punti, adesso ne ha 14, però allora le vittorie non valevano 3 punti per quel poco che l'Inter ha vinto, ma questo vuol dire che ha perso ancora più di allora, perché le sconfitte mi pare siano già Già sei, è combinata davvero male, anche perché mi sembra che si ampli questa frattura tra la vecchia guardia, che veramente arranca in maniera abbastanza penosa, e la giovane guardia, o comunque i ragazzi delle alternative, che non, insomma, fanno un po' fatica a maturare, anche perché vengono usati in maniera abbastanza misteriosa, una volta Cutigno, una volta Castegnosi, una volta chi è Ricky Alvarez, un'altra volta ancora non so chi toccherà, cioè nemmeno lì c'è un minimo di continuità, una ricerca di identità, e mi ricorda sempre di più la Roma, no? Che in 13 partite Vigliacco se ne ha giocata una uguale ad un'altra. Sì, era Zapata e non Felipe, il giocatore ceduto all'Udinese, questo era veramente un lapsus, infatti volevo dire Zapata, Inler e Sanchez. La sostanza non cambia moltissimo, perché cedere tre giocatori così e fare meglio dell'altro anno veramente è da pochi, vuol dire essere una grande squadra, una grande società e avere delle grandi basi da cui partire. Quando Socrates arrivò a Firenze, scrive Eugenio da Milano, si parlava di questa città come della più pulita del mondo, perché aveva acquistato un bidone da 7 miliardi di lire. Queste cose ce le siamo già scordate tutti, no Eugenio? Io questa per esempio me la ricordavo, ma non è che i giornali hanno cominciato a scrivere stronzate solo oggi, le scriveva già allora. Scrivevano anche questo del capitano del Brasile, che ebbe la disavventura, a proposito di aneddoti, di incappare subito a Firenze in un preparatore atletico che trattava quel motore, che era una Ferrari dai congegni delicatissimi, lo trattava come fosse un diesel e fece fare la stessa preparazione con le ripetute in salita, come usava allora, a Socrates, come, non so, come a Passarella, per dire, o come a Pecci, o come altri giocatori con un fisico leggermente diverso. Notava ieri, non mi ricordo più chi, ma un ex grande giocatore, che se 30 anni fa ci fosse stata nel calcio di allora, come c'è oggi, le preparazioni differenziate, cioè le tabelle di lavoro mirate sulle caratteristiche singole di ciascuno, tecniche ma soprattutto fisiche alla base, Socrates avrebbe fatto una carriera ancora migliore, in Europa, perché poi in Brasile invece tutto andava leggermente diversamente, e soprattutto allora si privilegiava la tecnica. C'è un paio di mail sono arrivati interessanti. Una arriva da Monopoli, provincia di Bari, è firmata Cosimo Tralcio, e dice: mi chiedo, ma chi c'è in Lega a decidere i calendari di anticipi e posticipi? Com'è possibile far giocare in notturna Parma-Palermo con l'ovvio pericolo di nebbia e alle 12.30 Catania-Cagliari? Questi scienziati non potevano fare l'esatto contrario? Sì, ma non sarebbero scienziati, caro Tralcio. Lei capisce che una struttura come quella della Lega Nazionale Calcio Italiana, insomma, almeno queste piccole perle se le deve poter concedere. Nasciv, se leggo bene, ha chiamato la provincia di Pordenone. Buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta un po', io volevo intervenire nel merito della squadra, dell'Udinese come squadra che ha praticamente 4-5 giocatori africani, e volevo farle una domanda: ma come mai questi signori qua delle grandi squadre tipo Milan, Inter, Juve vanno a spendere milioni e milioni di euro andando in Argentina o in Brasile, mentre che a un passo possono trovare delle perle, non lo so, di un giocatore di talento che possono migliorare col tempo? La ringrazio, l'aspetto per radio. Perché possono, ha risposto lei, c'è la risposta incorporata nella sua domanda, perché una grande squadra non raramente può permettersi di prendere delle perle, cos'è che ha detto, dei talenti che poi migliorano nel tempo, cioè hanno bisogno di gente già fatta e finita, e quindi vanno a cercare in campionati più collaudati, in paesi dove a 20 anni, a 22, si è già più maturi, si sono già fatte esperienze a un livello più alto di quelle che invece non possono essere fatte in Africa. È una scelta, ma è una scelta che ha un senso comunque. Bella questa mail firmata Emanuele Iannarelli, che scrive: sono un tifoso del Toro, approfitto di questa opportunità per sfogare la mia tristezza nei confronti della coppia Cairo e Petrachi. Fino a sabato si stava facendo un gran campionato, eravamo forse un po' in flessione ma più fisiologica che altro, è bastato un blackout alla coppia per esporre la squadra a una polemica col Padova, la cui stupidità si misurerà con la durata. Il loro quarto d'ora da protagonisti rubato al campo sarà pagato in serenità e concentrazione dal nostro già fragile ambiente. Complimenti, c'era davvero bisogno di imitazioni, 20 anni in ritardo del peggior Galliani. E questo si riferisce al, che non è male la battuta finale, devo dire, greve ma non malissimo, si riferisce allo 0-3 chiesto a tavolino dal Torino, non so se già ufficialmente, ma comunque quella è l'intenzione, o in ogni caso la ripetizione della partita, che già sarebbe tutto un altro discorso, per via del guasto che l'impianto euganeo ha registrato a più riprese nel corso del secondo tempo di Padova-Torino e che ha portato poi sull'1-0 per il Padova alla sospensione definitiva della partita a un quarto d'ora dalla fine. Antonio dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Niente, volevo parlare in qualità così di un tifoso innamorato della Roma. Le dico la verità che domenica ho sofferto tantissimo per quella figuraccia. Io non so, prima considerazione, 13-14 partite, non ricordo, e altrettante formazioni diverse. L'idea è questa: questo stratega spagnolo che doveva venire in Italia e rivoluzionare così la mentalità del nostro calcio sta rivelando poche idee, tanto confuse. Io non lo so, vedo che a 3 punti siamo in zona retrocessione, non lo so che cosa sta aspettando ancora la dirigenza romana nel sollevarlo dal proprio impegno. Chiedo un suo parere, la saluto. Il mio parere è che se la Roma ha il coraggio di difenderlo, di tenerlo, insomma di resistere, non è detto che faccia poi a gioco lungo un cattivo affare, sì, a patto ovviamente di non retrocedere, ma che questa fosse un'annata di transizione e di semina, si sapeva fin dall'inizio. Il problema è che adesso la semina sta riuscendo male. La Roma secondo me ha fatto, ma la Roma in generale, sto dicendo la Roma come società e come guida tecnica, ha compiuto un errore molto grave a parer mio, anche se ovviamente non ho titolo per dar lezione a chi che sia. Io credo che quando si imposta un piano di gioco coraggioso come quello di Luis Enrique e si cerca a vario titolo di limitare il Barcellona, bisogna partire da 2 giocatori imprescindibili, che devono essere possibilmente i più forti e i più affidabili della squadra, che sono i 2 centrali difensivi, perché senza la protezione di 2 veri centrali difensivi duttili e in grado di rimediare a tante magagne, non si va davvero, credo, da nessuna parte. La Roma quei 2 centrali difensivi non li aveva già in organico, ha pensato, ha sperato di rafforzarsi con Kier, finora non è andata così. Morale, Juan ormai mi sembra, e lo si è visto anche ieri, mi sembra di una fragilità impressionante. Kier è abbastanza infortunato a lungo, Burdisso si è spaccato e ne ha per tutto l'anno, gioca Heinz, che però è pure a rischio di prova TV credo per la prossima, e gioca Heinz, ma che già insomma comunque è un rimedio, no? Visto che vista l'età e viste altre considerazioni. Morale, io credo che contro la Juve dovrebbe giocare nel prossimo posticipo del lunedì sera, giocherà centrale certamente De Rossi, e non so bene con chi a fianco, se con Heinz, se non verrà punito, oppure magari con un ragazzo della primavera, e magari le cose andranno meglio, perché intanto non ci sarà Boia in campo, no? Che questa è una squalifica che potrebbe guastare fino a un certo punto, perché quando uno sullo 0-2 sulla linea di porta fa un manico come quello di ieri, ma forse si becca un accidente in un torneo aziendale, credo, a livello professionistico di Serie A, credo sia abbastanza impossibile fare una cosa del genere per quanto istintiva, e quindi non è poi detto che tutti i mali vengano per nuocere. Enrico Firenze, buongiorno. Sì, ragazzini. Dica. Senta, le voglio fare una domanda, per rispondere sinceramente, no, continuo a fare un'onda, darsi gogoli e tira fuori. Secondo me, all'Inter è un finito l'effetto Moggi, e mi spiego proprio, fino a che c'era l'effetto Moggi, facevano il bello e il cattivo tempo. Appena è finito l'effetto Moggi, e le 2 grandi società, Milan e Juve, si sono un po' riorganizzate, Milan già da tempo perché ha vinto il campionato l'anno scorso, questi signori nerazzurri, mi sembra, e guardi, le odio, non sono né tifoso né della Juve né per Milan, io dico solamente che questi hanno vinto ma oggi facevi delinquenti, per l'amor di Dio, ma questi hanno vinto per incapacità e perché hanno rovinato il latte, perché se questi sono tornati a essere quelli 6 o 7 anni fa, se un viene fuori un altro Moggi, questi non rivinca nulla, perché con Castagnossi, Martinez, quell'altro Usigno, questi sono ridicoli. Io le rispondo, visto che lei ha chiesto una risposta sincera, rispondo sinceramente, mutuando un vecchio slogan degli anni 60 che diceva, e che era girato da Virna Lisi, stupenda donna, lo è ancora adesso in parti ovviamente diverse come ruolo e come età. E questa stupenda donna diceva, lo slogan diceva, con quella bocca può dire ciò che vuole. Io le dico, con quell'accento lei può dire veramente ciò che vuole, perché il suo è un accento strepitoso che non so chi potrebbe non invidiarglielo. Grazie Enrico, andiamo da Fulvio in provincia di Forlì Cesena di nuovo. Sì, pronto. Dica. Ah, buongiorno, dottor Garanzini, complimenti per la sua conduzione. Guardi, il telefono dico una banalità sicuramente, intanto premetto che sono d'accordo con il mio conterraneo Forlì Cesena, che ha parlato circa mezz'ora fa dicendo parlando di Chiellini e compagni che si lamentavano ad ogni fallo laterale. Però Fulvio, si saranno anche lamentati a ogni fallo laterale, ed è vero, perché c'è questa tendenza da parte dei gol. Detto questo, se ne finivano fuori un paio del Cesena per scarpate, non succede, a cominciare da Rossi non succedeva niente. Va bene, d'accordo. Sì, la Juventus ha meritato di vincere, ci mancherebbe. Era il Cesena che meritava di finire in 10 se non in 9, se parliamo di pedate. Poi invece, se parliamo del rigore di Antonioli, è una comica ed è una. Volevo dire quello, infatti. Dico una banalità, perché il rigore, insomma, l'hanno visto tutti. Secondo me non c'era proprio bisogno di dare una mano alla Juventus, non aveva bisogno di questa mano. Non so come certi arbitri possano, perché qui non si può parlare neanche di sviste arbitrali, cioè, quindi mi vengono dei brutti pensieri. Fulvio, fa male a farsi divenire, perché lì non è una questione di brutti pensieri o una questione di dare una mano alla Juventus. Se avesse voluto dare una mano alla Juventus, l'arbitro ne cacciava fuori due prima del Cesena e nessuno avrebbe avuto nulla da dire, perché Rossi era già ammonito quando spacca la faccia a Del Piero in precedenza, certamente Mutu, ma anche un altro che non mi ricordo, forse lo stesso Rossi nel primo fallo, nella prima ammonizione, era già bello maturo per un cartellino almeno arancione, no? come si usa dire. Quindi l'arbitro avrebbe avuto, se avesse voluto dare una mano ai potenti, avrebbe avuto mille occasioni prima, non di dargli una mano, ma di essere più severo. Non lo è stato, e quindi questo mi fa pensare che sul calcio di rigore abbia semplicemente preso una cantonata grave, ma una cantonata fine a se stessa, a parte il fatto che il Cesena da alcuni giorni non passava la metà campo, no? E quindi adesso dire che questo rigore poi abbia influito sul risultato finale mi sembra un tantino disonesto, senza offesa. Il 5 dicembre, nella rivisitazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 5 dicembre 1954. L'Italia torna in campo poco meno di 6 mesi dopo il flop ai mondiali svizzeri, sfidando all'Olimpico di Roma in amichevole l'Argentina. Tra gli azzurri spicca la novità Schiaffino. Il campione del mondo uruguaiano ha avuto il suo esordio da oriundo, operazione resa possibile da un nonno genovese. Ed è un debutto in cui Pepe lascia immediatamente il segno, fornendo l'assist a Frignani, suo compagno di squadra al Milan, per il gol dell'1-0 dopo 28 secondi. Si tratta di una delle reti più veloci nella storia della nazionale. A dispetto delle promettenti premesse, l'avventura di Schiaffino con la maglia dell'Italia sarà però breve e priva di soddisfazioni. Il campione uruguaiano alla fine giocherà solo 4 gare in 4 anni, senza segnare nemmeno un gol e partecipando al KO in Irlanda del Nord, che sancirà la mancata partecipazione degli azzurri a Svezia 58. Eh sì, davvero. Tempi da basso impero per il calcio italiano, perché oggi, per carità, non è che non ci abbiamo gli oriundi, o meglio, non li abbiamo avuti per tanti anni, adesso sono tornati di moda. Ma adesso almeno c'è una questione preliminare serissima, e cioè può indossare la maglia a certe condizioni, la maglia della nazionale italiana, un giocatore che in ogni caso non abbia mai fatto parte di una nazionale estera. Schiaffino non solo ha giocato con l'Uruguay, ma ci aveva vinto un mondiale, e di quell'Uruguay per anni era stato il leader, trattandosi di un giocatore che, insomma, qualcuno ricorderà anche nel Milan, qualcuno ovviamente datato, e sarà d'accordo che si è trattato di uno dei più grandi campioni della storia del calcio in assoluto, fuoriclasse autentico. Questo è uno di quei casi in cui il termine fuoriclasse può essere usato senza paura di sprecarlo. Massimo da Salerno, buongiorno. Buongiorno Garanzini, e complimenti per tutto, praticamente per tutto. Volevo spendere giusto due parole per l'Inter. La considerazione è questa: io penso che la situazione attuale sia figlia della situazione che si creò due anni fa con Benitez, nel senso che andava preso, sì, però gli andava fatta una squadra intorno, cosa che non è stata fatta, e poi sappiamo com'è andata. Mi sembra però, io frequento molto i forum, social network, eccetera eccetera, e leggo molti pareri di sdegno nei confronti della società. Però quando poi vedo le partite e vedo praticamente, insomma, quello che vediamo tutti, non vedo nemmeno l'ombra di una probabile, almeno civile si intenda, contestazione nei confronti della società, cioè nel senso che assistiamo impotenti alle cose così come ci sono state presentate, e nessuno osa dire niente, come se quasi la società Moratti, per carità, che va ringraziata fino alla fine, però siamo di fronte a un fallimento che dura ormai da due anni, come se fossero intoccabili, cioè credo che almeno un fischio almeno nei riguardi di una della dirigenza, credo che sia almeno lecito da parte nostra di tifosi, che avevamo ben altre aspettative dopo essere stato, sì, mi domando, detto del mondo. Mi domando dove sarebbe l'aspetto costruttivo della politica dell'almeno un fischio, però contento lei per carità. Adesso due anni mi sembrano tanti, perché semmai sono un anno e tre mesi, figlio di, insomma, è figlio di tanti errori Questo momento dell'Inter, non certamente di uno solo, ma credo che scelga lei se il fischio o che genere di disaccordo meriterebbe una società che dopo Mourinho quanti ne ha cambiati, cioè che numero è di allenatore? Ranieri, e soprattutto è almeno il quarto, mi pare, no? Perché Benitez, se non ho perso il conto, Benitez, Leonardo, Gasperini e adesso Ranieri. Li prenda, li metta uno di fianco all'altro e mi dica nelle note caratteristiche di queste persone, di questi tecnici, se ce n'è uno che sia lontanissimo parente dell'altro. Questa è la cosa sbalorditiva per un mio. Non c'è il minimo senso logico nel passare dall'uno all'altro, perché sono allenatori diversissimi tra loro. E questa credo che sia un altro dei problemi seri. Se poi aggiunge che chiunque fosse di questi quattro doveva in ogni caso fare i conti con il clan degli argentini in particolare, e non solo con quello, insomma, credo che i problemi siano tanti davvero. Chiamino in causa la società, ma non soltanto la società, chiamino in causa tante ma tanti componenti. Mi segnala Franco Piantanita che la frase della domenica, e certamente li devi smangiare, l'allenatore del Palermo, che ieri sera in piena nebbia, io me la sono risparmiata sinceramente, lo confesso, in piena nebbia, dopo una trattenuta di Zaccardo su Bertolo in area di rigore, si è girato verso l'arbitro e gli ha urlato: arbitro, ma era rigore solare. E questa è leggendaria veramente, perché non si vedeva a 10 metri di distanza. Vabbè, Massimo da Venezia, buongiorno. Buongiorno Gigi, io sono tipo della Fiorentina, ieri ero a Firenze a vedere la partita. Siccome avete parlato della Roma molto, io ho visto una partita mostruosa di De Rossi da libero, anche in 9, sembrava avesse la calamita. D'accordo. I palloni li prendeva tutti lui, strepitoso. Io penso che se si giocasse ancora a calcio vero, cioè quello in cui i difensori mancano gli attaccanti e non la zolla assegnata dall'allenatore, De Rossi sarebbe un libero all'altezza di Scirea o di Paredi, insomma di quelli. Veramente strepitoso. Sulle trattenute è bellissima la pantomima, calcio d'angolo, calcio di punizione, l'arbitro va in area, richiama 3 o 4, come poi no? Si gira, torna tutto come prima. E no, anzi, fanno peggio di prima. Fanno peggio di prima. Ne finisco... Cosa serve la pantomima? È ridicolo. Sono. E sulla Fiorentina, velocissimamente, ieri ci è andato tutto bene, bisogna dire, io non mi sono esaltato, ero felice ovviamente, anche perché pioveva, per questo è meglio vincere quando piove, no? Però non mi sono esaltato sinceramente, ha fatto tutto la Roma, quasi certo. Tutto, nel bene e nel male, per cui ieri ci ha girato tutto bene, magari con la Lazio lo potevamo pareggiare con un po' di fortuna, col Catania si poteva vincere, però come all'Inter non era colpa di Gasperini, a Firenze non era colpa di Mihajlovic, insomma, se giocano Jovetic e Gilardino è un conto, se sono fuori per infortuni è un altro, se Vargas e Cerci la sera escono e poi tornano quando gli pare, non so, per cui dipende da quelli che vanno in campo sempre, sono pochissimi per me gli allenatori al mondo che fanno la differenza, se hanno dietro la società ovviamente, altrimenti nessuno fa la differenza. Se hanno dietro la società, se hanno avuto tempo per impostare un lavoro, se hanno creato dei meccanismi collaudati, sia ambientali che tecnici che tattici, se, cioè questi sono i presupposti, quando uno arriva, sì, ci può essere quello un po' più bravo di un altro a dare la cosiddetta scossa, adesso vedremo Cosmi che scossa darà a Lecce, ma insomma tutto è abbastanza relativo. Da Prato ha chiamato Giacomo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, un ricordo di Socrates, avevo 17 anni, mi pare la partita fosse Fiorentina-Atalanta, e mi ricordo una dignitosissima partita di Socrates. La partita finì 5-1, mi pare, se non sbaglio, ora sono passati tanti anni, e fece anche un bellissimo gol su pallonetto da fuori area con una specie di cucchiaio, quindi fu un bel ricordo, insomma, di questo giocatore e di questa partita, nonostante non sia stato tanto fortunato a Firenze. Tutto qua. Grazie Giacomo, no, tanto fortunato no, ma probabilmente lui stesso poi a un certo punto capì che non era, insomma, che non era aria, che il calcio italiano non era particolarmente. Teniamo anche conto di com'era, ci vorrebbe un piccolo excursus storico anche per spiegare. Il calcio italiano di allora era assai più difficile di quello di oggi, perché era un calcio molto più chiuso, molto più speculativo. Basta andare a guardare il numero di gol che si segnava allora, le classifiche cannonieri, quando segnavi 15 o 16 gol in un anno hai fatto davvero una performance eccezionale, adesso no, era un campionato molto ma molto più equilibrato perché c'erano le 16 squadre, non le 20 di oggi, quindi c'erano 4 squadracce di meno, no? E quindi c'era un livello più alto, più alto, più competitivo, e quindi infatti allora si diceva, grazie anche agli arrivi dei Platini, dei Socrates, degli Zico, che arrivarono, dei Falcao, che arrivarono più o meno tutti nello stesso anno o comunque nel giro di un paio d'anni, si diceva che fosse il campionato più bello del mondo ed era certamente il più difficile, ecco, su questo non c'erano davvero dubbi. Poi in certe fasi era forse anche il più bello, ma il più difficile senza alcun dubbio. Oggi non è certamente più il più bello e c'è qualche legittimo dubbio che sia anche il più difficile. C'era Fabio Cantadori in regia, alle tastiere di questa puntata, c'era Franco Piantanida in redazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio.